Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccoci e benvenuti. Carmelo Lauricella, mi sono impaperato, in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, i titoli del nostro sommario, andiamo. Dalle Alpi al mare, tutto quello che puoi fare. Cuccioli vivaci, ma con moderazione. Navigare in tutta sicurezza sul web. Amici, è tornato, è qua in studio in carne e ossa, e quindi che la trasmissione cominci! Oggi una trasmissione senza confine, saliremo ben oltre i 3.000 e scenderemo almeno a meno 50, perché oggi, cari amici, partiremo... Cuzzolo della montagna, con la neve alta così, per la valle noi scenderemo, con i piedi un paio di... Sci dal cucuzzolo della montagna. E sì, e noi scenderemo, andremo giù. In fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la sbassiamo in fondo al mare. Dottor Confalonieri, viene voglia di ballare, altro è vero, che... È vero, buongiorno, ben ritrovati tutti. Vedevo che si agitava, aveva il piedino che andava. Sì, perché questa canzone la ballo spesso. Vero, ultimamente con mia figlia in fondo al mar. Sì, dottore, sì. Oggi due discipline molto diverse, affascinanti, assolutamente particolari. Parliamo di alpinismo e apnea, lontane ma in fondo con dei tratti in comune. Sì, due discipline apparentemente molto diverse, però che hanno alcuni tratti in comune secondo me molto significativi. Il primo, possono diventare la scusa per cominciare a fare esercizio fisico. Per chi odia la palestra, lo sport ripetitivo, le imposizioni o anche il gioco di gruppo, l'idea di arrivare in alta montagna, di scendere nelle profondità, di diventare alpinista piuttosto che apneista, può essere l'obiettivo attraverso il quale cominciare a fare sport, perché sono discipline che impongono una preparazione fisica adeguata, impongono un'istruzione adeguata, non vanno assolutamente improvvisate, perché sono discipline affascinanti ma potenzialmente pericolose. Quindi possono davvero diventare lo strumento per riscoprire il nostro corpo, cominciare ad allenarlo e ritrovarsi più in forma e oltretutto protagonisti di qualcosa di davvero molto bello. Noi qua in studio abbiamo il primatista mondiale di immersione in apnea. Io sono molto emozionata perché è grande in tutti i sensi, a 360 gradi. È Gianluca Genoni, benvenuto Gianluca, grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti. In aiuto del dottor Confalonieri, che non potevamo far correre, no, dal cucuzzolo al fondo al mare, abbiamo chiamato il dottor Danilo Cialoni, istruttore di apnea e vicepresidente di Apnea Academy Research. Buongiorno dottor Cialoni. Cialoni, benvenuto. Buongiorno a tutti e un saluto a Gianluca, ovviamente. E come trade union di queste due discipline, Lisetta Landoni, presidente dell'Accademia Cria Yoga di Milano, buongiorno e bentornata. Nicoletta, grazie. Che ci aiuterà a conoscere, forse ad imparare alcune tecniche yoga di respirazione che chi pratica queste discipline utilizza, sia per chi si arrampica e sia, certo, chi per scende. Come giustamente diceva il dottor Confalonieri prima. Ma se che non possono si sa essere, respirare. Certo, utili anche a chi vuole avvicinarsi, proprio quindi nel corso della nostra trasmissione, se volete approfittare, anche se state solamente pensando di avvicinarvi all'alpinismo o all'apnea e quindi state facendo una preparazione intermedia, vi manca un po' il fiato, noi oggi approfittiamo di Lisetta Landoni che ci aiuterà a respirare bene. 824 0024, quindi se siete campioni, aspiranti campioni, potete approfittare sicuramente dell'opportunità di avere qua in studio Gianluca Genoni e naturalmente il dottor Franco Confalonieri e il dottor Cialoni ci accompagneranno per dare istruzioni e raccomandazioni e soprattutto ci faranno capire che cosa succede al nostro organismo quando sale su o scende giù. Una mela al giorno. forse è uno dei guai minori che gli sono capitati negli ultimi anni, ma il povero Pibe de Oro ha dovuto anche fare i conti con il suo cane, che ha pensato di mordergli il labbro. Maradona è stato medicato e tutto è tornato a posto, ma la notizia mi fornisce lo spunto per fare due chiacchiere con il professor Roberto Marchesini, docente di etologia e zoantropologia e direttore della scuola di interazione uomo-animale di Bologna. Professore, bentornato. Buongiorno a voi. Professor Marchesini, sempre più spesso sui giornali si leggono storie di aggressione di cani nei confronti di sconosciuti, ma anche dei loro padroni. Noi abbiamo affrontato più volte il tema con lei e sicuramente una buona parte della responsabilità è da attribuire ai padroni dei cani. Certamente, sicuramente il cane risponde a quelle che possono essere dei profili di educazione, a volte di esercizio che la persona dà senza rendersene conto, per esempio dando attenzione a determinati comportamenti che il cane manifesta anche quando è cucciolo, o lavorando, per esempio facendo molto il tira e molla eccetera, va a esercitare molto spesso la tendenza del cane a prendere con la bocca e quindi a, insomma, in un certo senso ad allargarsi un po' anche prendendo poi le mani, stringendo, e questo a volte può produrre dei problemi. Infatti, professore, molte volte più che aggressivi, i cani, i cuccioli giocano pesante, mordicchiano, saltano addosso, fanno gli agguati e i padroni leggono questi segnali come espressione di vivacità. Ma, professor Marchesini, è giusto che si facciano un po' di precisazione e approfitto della sua competenza per chiederle di dare qualche consiglio. Beh, prima di tutto va detto che i cani vanno presi a 60 giorni e bisogna assolutamente fare in modo che la mamma li tenga per i primi due mesi, perché la mamma gli insegna le buone maniere, veramente è una prassi educativa fondamentale. I cuccioli che non hanno avuto questa possibilità si presentano eccessivi e esuberanti, non sanno stare nelle situazioni, non hanno l'inibizione del morso, perché è proprio la mamma che gli insegna a controllarsi, a non mordere e non stringere, quindi a dargli questo tabù del morso. Quindi i cuccioli che non hanno avuto questo, perché purtroppo molto spesso vengono presi da piccoli piccoli, vengono portati dall'estero, abbiamo dei cani che non hanno avuto questa educazione di base. La seconda educazione è quella che deve dare il proprietario. Tutte le volte che il cane manifesta comportamenti di presa con la bocca, invece di essere, di assecondare o di tirare o di dire vabbè, tanto è un cucciolino, in poco tempo, voglio dire già a 6 mesi, ci troviamo di fronte a un adolescente con i problemi che tutti gli adolescenti hanno, quindi anche i cani. Deve imparare fin da quando è piccolo che tutte le volte che morde, che stringe o che prende con la bocca, smettiamo di giocare, ci voltiamo, andiamo via, in modo tale che lui capisca che se, siccome i cani proprio amano soprattutto la relazione e quindi l'attenzione, noi togliamo l'attenzione, togliamo il gioco, togliamo la relazione, ce ne andiamo via. Il cane dice vabbè, se voglio giocare con lui bisogna che abbia un altro tipo di approccio. Ecco, molto importante togliergli qualcosa di piacevole come può essere l'attenzione, la relazione, il gioco, la nostra presenza, tutte le volte che il cane fa qualche cosa che noi non vogliamo, quindi, perché poi voglio dire questi comportamenti evolvono, cioè non è che all'inizio è semplicemente una piccola presa con la bocca, poi può diventare qualcosa sempre più pericoloso, quindi evitiamo questo assolutamente. Prevenire, quindi. Grazie professor Marchesini, buona giornata. Grazie a voi. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme per affrontare la puntata di oggi, per parlare soprattutto di due discipline, una trasmissione, una puntata affollata di ospiti, per parlare invece di due attività che esaltano il contatto con la natura e i suoi silenzi. Dottor Confalonieri. Sì, due discipline che magari hanno affascinato molti fra i nostri ascoltatori. Io vorrei proprio chiedere lui loro... Lui vuole farvi la domanda. Perché... sapete che ci tengo, ma è una specie di mania diventata, sì, di rito. No, perché magari tanti, come è capitato anche a me, sono stati affascinati dall'idea dell'apnea piuttosto che dell'alpinismo, ma non hanno avuto il coraggio di cominciare. C'è stato qualche timore, qualche paura, qualche senso di inadeguatezza che li ha bloccati. Allora vorrei capire il perché non hanno cominciato, che cosa li ha fermati, e magari insieme ai nostri ospiti oggi riusciremo ad aiutarli a cominciare finalmente con questa primavera a realizzare questo loro sogno. In linea con noi è arrivato Marco Confortola. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti dai 3500 metri. Ecco Marco, raccontaci cosa senti e cosa vedi intorno a te. Beh, devo dire che io sono fortunato, vivo in Val Furva, per cui in Alto Valtellina, e vivo in paradiso. Di conseguenza adesso vedo solo bellissime montagne, per cui vedo un paradiso attorno a me. Senti, e i rumori? C'è il mio cane e i miei clienti che stanno salendo sulla traccia e basta, c'è un silenzio bellissimo, è un altro mondo. Lo credo. Senti Marco, tuo padre ti ha passato la passione per la montagna e tu scrivi e racconti che te la sei trovata addosso in modo quasi inconsapevole e scrivi quando scopri di colpo che ami una persona e non ne puoi più vivere senza. Direi che è una bellissima dichiarazione d'amore. Sì, è vero, perché comunque sono nato e vivo in un posto magnifico, i miei genitori mi hanno veramente trasmesso la grande passione per la montagna, che poi col crescere, col diventare grande, è diventato un lavoro, una passione e via. Anche oggi sono in montagna. Eh sì, infatti noi con te vogliamo in montagna, ma insieme a Gianluca io vorrei scendere, perché Marco ci ha raccontato questa passione. D'altra parte immagino che per avventurarsi, per praticare l'alpinismo come l'apnea, ci voglia molta passione, non un po' diverso che andare in palestra senza che questo, no, comporti, sì, no, sì, non sì. Voglio dare giudizi, ma sicuramente c'è qualche cosa di più, un élan come direbbero i francesi, un bisogno e noi una tensione molto forte. Che cosa ti ha richiamato? Perché l'acqua? D'altra parte noi abbiamo una memoria dell'acqua, no? Nasciamo proprio dentro l'acqua. Sì, abbiamo... io mi sono avvicinato all'apnea per caso, non è una disciplina come può essere il nuoto che ho praticato fino a 20 anni, il calcio, il basket. Mi sono avvicinato per caso, anche perché vivendo a Busto Arsizio, quindi non proprio un paese di mare, ci sono arrivato... Ho iniziato a fare apnea sfidando i miei amici che stavano sott'acqua più tempo in piscina, fondamentalmente. E poi ormai 20 anni fa ho scoperto la bellezza dei fondali, quindi tutto quello che c'è sotto il mare, il silenzio, la tranquillità, la pace, i colori che svaniscono, il tuo corpo che perde peso, sensazioni molto belle e molto emozionanti. Sicuramente io ho iniziato non per fare dei record o per fare dei primati di immersione, ma ho iniziato a fare apnea proprio per questo motivo, per il fascino che hanno i fondali, per il silenzio, per i posti, come diceva Confortola, sono in paradiso, anche quando si va sott'acqua si è in paradiso, cioè sono dei posti incantevoli, dei luoghi che ti danno proprio benessere psicofisico. E io che sono stato anche, non come Confortola ovviamente, ma sono stato anche sull'Everest, che ho fatto anche, sono salito in cima al Cervino, ho fatto il Monte Bianco, ho fatto molte montagne. Devo dire che gli ambienti dove la natura è molto forte, che può essere o alta montagna o mare bello, sono molto, molto simili, cioè questi spazi enormi, questi spazi incontaminati, questi grandi silenzi, e sono posti dove al di là dell'attività fisica, dell'attività sportiva, c'è anche proprio un'attività introspettiva tua, quindi resti solo con te stesso, ti conosci, hai delle sensazioni, delle emozioni che difficilmente puoi riprovare in posti affollati o in ambiente con molte persone. Gianluca, ti ringrazio, perché la puntata di oggi è quella di parlare di queste due discipline, ma trovare, senza tirarle per i capelli, dei punti in comune. Marco, Gianluca, tu sei in paradiso, però anche lui dice montagna, alta montagna e fondali marini in fondo hanno qualche cosa di molto simile. A te mai è capitato di scendere? Beh, innanzitutto voglio salutare Gianluca, e io sono Marco, non conforto la Gianluca, siamo amici, dai. Sì, siamo sì, molto, sì. Vediamo tanto con la passione, per cui certo. Grazie Gianluca e complimenti, sì, per le tue immersioni. Grazie mille. Io di fatto nelle conferenze, quando parlo a tanta gente, porto sempre l'esempio del mare e della montagna, perché secondo me sono due mondi molto molto simili. E difatti dico sempre che sono loro che comandano, è la montagna e il mare che comanda. E mi fa molto piacere parlare con Gianluca, che è un artista delle immersioni. Io sinceramente non sono mai andato sott'acqua più di tanto, in piscina però non sono mai andato tanto tanto sott'acqua, anche perché non è poi il mio elemento è elemento acqua, ma nello stato solido e non liquido, però voilà. E complimenti a Gianluca, perché si è fatto anche lui Cervino, per cui è uno ganzo. Perché... È uno ganzo! Dio... Senti Marco, tu io so che devi andare perché hai gente con te, magari la prossima volta viene anche Gianluca. Sì, volentieri. Gianluca, prenditi il numero, che se vieni in alta altalina quando torno dalla mia prossima spedizione, che vado a Lozze, per cui parto fra qualche giorno, vado a Lozze, quando torno vieni a cercarmi, che... avrei piacere, così che si sale, va benissimo. Senti, tra l'altro Marco, una nuova riparti per una nuova avventura che ha un significato speciale per te in prima persona e direi per tutti. Io so che tu ti porterai, magari riusciremo a sentirci con un satellitare, così ci racconti. Sì, c'è questa idea con voi per cui se riusciremo a fare delle dirette dal campo base dell'Everest o anche dei campi alti dell'Ozze, sarebbe una cosa magnifica. E poi comunque tornare là è una riconferma mia personale, e poi io scalerò per me, ma scalerò soprattutto per tutti i miei tifosi, per i miei familiari, per i miei amici, ma per i miei tifosi grandiosi, perché veramente loro mi hanno sempre dato una forza infinita. E devo dire che guarda, arrivano tantissimi messaggi dei tuoi tifosi al 349-238-6666 e noi siamo con te. Grazie tante Marco. Ciao, un abbraccio e noi ci sentiamo presto, perché in fondo sali anche per noi, no? E noi saliamo anche con te. Va bene. Grazie a Marco. Salvatore dalla provincia di Terni, buongiorno. Buongiorno, signora. Senta, volevo fare una domanda, dottore. Sì. Io, dato che per motivi di lavoro, dal livello del mare mi trovo in 1.5 ore, a circa 1.200-1.300 metri di altezza. E spesso mi sono dei dolori di testa, la vista, dei disturbi. Allora, è normale o si deve preoccupare? Dottore? No, diciamo nel senso dottor Confalonieri. Sì, diciamo che anche una salita rapida fino a 2000 metri non dovrebbe, adesso non so l'età del nostro ascoltatore, però non dovrebbe in linea di massima creare nessun tipo di problema. Quindi se ci sono questi problemi significa che la relativa riduzione della pressione, quindi della disponibilità di ossigeno legata all'altitudine, comporta dei problemi atipici al nostro ascoltatore. Quindi sarebbe importante, da un lato, fare una valutazione approfondita se è tutto a posto dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista della pressione arteriosa, dal punto di vista della vascolarizzazione. Se tutto fosse a posto, allora probabilmente deve imparare ad approcciarsi a questa situazione ambientale diversa che già i 2000 metri rappresentano, con la loro diminuita disponibilità di ossigeno. Dottor Cialoni, questo è valido anche, serve anche per chi fa apnea, immagino, queste raccomandazioni? Assolutamente, anche perché questo tipo di disturbo sembra, diciamo così, essere legato a persone che sono particolarmente predisposte a questo problema. Le quote a cui si riferiva il nostro radioascoltatore sono effettivamente un pochino basse per immaginare dei problemi di questo tipo, però probabilmente in persone, in soggetti particolarmente predisposti, è probabile che basti molto meno chiaramente per arrivare a questi disturbi. Questo accade anche nell'apnea, infatti negli ultimi anni si suggerisce a tutti gli apneisti di approcciarsi alla profondità in maniera sempre molto graduale, proprio per permettere un adattamento che è importante nella salita in alta montagna, ma anche nella discesa sott'acqua. Lisetta, ci fa fare una bella respirazione, perché è vero che il respiro, insomma, è fondamentale sia per chi sale sia per chi scende. In molti siti l'apnea è definita come l'arte del non respirare. Sì. In realtà, per arrivare a non respirare sott'acqua bisogna respirare bene prima. Ma adesso con Gianluca ne parleremo. Sì, e soprattutto avere un livello di concentrazione molto profondo, perché appunto, anche come diceva Confalonieri prima, in situazioni estreme si accentuano appunto delle forme di attenzione molto particolari, questa introspezione che serve poi a rendere di più. Tra l'altro, prima di partire per l'esercizio, Elisetta, lei ha collaborato con Umberto Pellizzari, sì, e la sua equipe, quindi è proprio lo yoga che si intreccia, diventa un elemento dell'allenamento e della preparazione. Il pranayama in modo particolare, quindi tutte le tecniche di respirazione che si chiamano appunto pranayama e sono assolutamente fondamentali nella preparazione all'apnea. Quindi tutti quelli che noi chiamiamo gli esercizi a secco, quelli che si fanno fuori a bordo della piscina, fuori dall'acqua, ecco, sono fondamentali per arrivare ad avere non solo una perfetta, come dire, condizione dell'apparato respiratorio, che quello è evidentemente fondamentale, ma poi per avere quel livello di concentrazione che permetta l'immersione in condizioni ottimali. Abbiamo un minuto prima di fare una pausa per impostare un esercizio di respirazione. Sì. Ogni attività sportiva ha il suo tipo di respirazione. Facciamone uno per la montagna E c'è tempo per farne uno per l'apnea o rimandiamo dopo? Ma possiamo fare adesso quello per la montagna, e se poi vuoi. Saliamo, sì? E sì. Poi riscendiamo. Intanto sì. Saluto Angelo da Milano. Buongiorno Angelo, stia attento. Pronto Angelo? Io la sento. Ok, allora vai con la montagna. Allora, qui c'è un bellissimo pranayama che mi è stato trasmesso dal mio maestro Andrei Van Lisbeth e si chiama il pranayama dello Sherpa. Qui si parla, ci si riferisce però già ad altitudini estreme, tipo i famosi 400 metri prima di arrivare agli 8000, no? Sì. Dove tutti chiaramente sono in difficoltà. Ecco, e consiste in questo. Allora, chi sta praticando, chi sta avanzando, diciamo, avanza prima con il piede destro, inspirando con il naso e mentalmente dicendo 1, 2, quindi con il piede destro. Poi in apnea polmoni pieni, quindi trattenendo il respiro polmoni pieni, avanzi il piede sinistro e lo metti accanto al destro. Sì. Poi sull'espiro tu avanzi con il piede destro, contando sempre 1, 2, e poi sulla ritenzione polmoni vuoti, quindi sempre in apnea, avanzi il piede sinistro, dicendo sempre mentalmente 1, 2. Quindi tutto scandito da una grande attenzione mentale e da un percorso eseguito in tempi estremamente brevi, come puoi immaginare. Certo, ecco. E quindi bisogna mettere al passo il respiro. Esattamente. Il pranayama dello Sherpa. 1, 2, avanzo, esatto. Angelo, devo chiederle di venire con noi, torneremo, arrivano tantissimi messaggi, la subacquea insegna il rispetto per se stessi, per un fantastico mondo, perché non è nostro, insegna a conoscere i propri limiti e a espanderli, ci scrive Gianluca. Molti chiedono, posso provare, Gianluca scrive a Gianluca, posso provare a fare apnea, mi viene un po' di nausea. Di tutto questo parleremo, naturalmente anche di alpinismo, pause, subito dopo insieme. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati, 800-24-0024, un numero che oggi va bene per chi ama la montagna, parliamo di alpinismo, ma chi anche ama il mare, direi la profondità del mare. Abbiamo Gianluca Genoni oggi qua in studio con noi e per noi è un grande piacere, e tanti messaggi sono arrivati per lui, per i suoi fan, tanti per Marco Confortola che abbiamo appena sentito e che si sta arrampicando, ma che adesso ripartirà e scalerà nuovamente anche per noi. Angelo l'abbiamo già salutato, ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, devo dire che non vado d'accordo né con l'alta pressione né con la bassa pressione praticamente. Anche facendo gli esercizietti, quelle cose lì, non c'è verso. Tipo, ho fatto anche un corso di subacquea, le prime due lezioni sono riuscito tranquillamente a farle, però alla terza ho avuto una lesione al timpano. E quindi da lì ho rinunciato praticamente. Vabbè, ci sono tante altre cose da fare, dal cucuzzolo della montagna fino al mare, c'è poi tutta una fascia intermedia, c'è il parco per correre, si può andare in bici, in palestra, sul tapirulan, che non è. Il fatto è che poi si è rimarginata comunque, diciamo, la ferita fatta al timpano. Sì, va bene, ma noi oggi non vogliamo occuparci del suo timpano, Angelo, no, che mi fa piacere, ma vogliamo soprattutto occuparci della sua fatica, magari, ad intraprendere un'attività sportiva che piacerebbe fare, ma che ha delle limitazioni. Gianluca, perché nascono questi problemi? Ha sbagliato qualcosa? C'è una sorta di predisposizione? Chiediamo poi anche aiuto al dottor Cialoni. Ma sicuramente per la compensazione, quando si scende in profondità, un minimo di predisposizione ci vuole. Anzi, proprio la compensazione è una delle cose allenabili, ma allenabili solo in parte. La predisposizione è proprio la conformazione delle tube che tu hai, quindi come passa più o meno facilmente l'aria nelle tue orecchie. Certo, se tu hai le tube pervie, cioè dritte e grosse, l'aria passa sempre molto facilmente. Se iniziano ad essere più strette, più storte, per fare la manovra di compensazione iniziare a forzare di più, e quindi basta che sei un po' raffreddato, basta che hai qualche problema o l'acqua particolarmente fredda e rischi subito di avere dei problemi. Certo, rompersi un timpano non è molto facile, perché se ti fermi quando avverti fastidio, quando avverti dolore, interrompi la tua discesa, non hai problemi di questo tipo, a meno che la tua membrana timpanica non sia già in qualche modo sensibilizzata più... o che abbia dei problemi. Dottor Cialoni, negli ultimi anni ci sono state fatte molte ricerche, lei ha collaborato con vari istituti, tra cui il CNR di Pisa, l'università, per capire che cosa esattamente succede quando Gianluca scende, no? In profondità, e molte leggende sono state sfatate. Sì, Nicoletta, non soltanto Gianluca, ma anche i tanti, diciamo così, appassionati molto meno forti di Gianluca e dei grandi campioni che negli ultimi anni si sono avvicinati a questa disciplina. Oggi ormai parliamo di migliaia di persone che ogni anno si avvicinano a questa disciplina, e qui entra proprio, diciamo così, in essere il discorso della predisposizione a cui si accennava. È chiaro che fino a quando l'apnea era uno sport per pochi, quindi per pochi predisposti, i problemi erano minori e chiaramente le cose da gestire erano chiaramente meno. Con la diffusione a persone comuni che magari ormai hanno anche qualche anno, perché non ci dimentichiamo che si avvicinano all'apnea persone di 35 anni, di 40, di 45, quindi non il ragazzino che ha tempo, diciamo, di adeguarsi a questa situazione, è chiaro che si è dovuto gestire un approccio diverso alla profondità, un approccio più lento, più graduale, più gestito, diciamo. In questo senso sono entrati appunto nel gruppo di ricerca questi istituti estremamente importanti, cioè istituti abituati a fare ricerca sul serio, che hanno fatto, diciamo così, un cambiamento importante nella ricerca nel mondo della subacquea, perché sono stati in grado di realizzare degli apparecchi per vedere direttamente sott'acqua cosa accadeva al corpo. E cosa capita? Cosa capita? È stato realizzato un elettrocardiografo, ad esempio, subacqueo, quindi la possibilità di vedere l'attività elettrica del cuore, ma se no siamo andati avanti realizzando un ecografo subacqueo, quindi vedendo il cuore in movimento sott'acqua e misurando la pressione sott'acqua. Esperimenti che in maniera pioneristica erano già stati fatti, a dire il vero, in passato, ma chiaramente con strumenti di 30-40 anni fa. E quindi per la prima volta si è visto che cosa accadeva a questi organi in profondità. Ovviamente estremamente affascinante da un punto di vista fisiologico per noi che lo studiavamo, ma estremamente utili non soltanto per l'apnea e quindi per chi praticava questo sport, ma anche per studiare tutta una serie di malattie in realtà, perché alcune modificazioni che noi abbiamo sott'acqua e che per noi sott'acqua sono fisiologiche, normali, non ci creano nessun problema, se accadessero sulla terraferma sarebbero delle malattie. Quindi noi ci siamo trovati di fatto un modello importantissimo di studio, perché potevamo studiare delle condizioni tra virgolette patologiche su soggetti che stavano benissimo in condizioni in cui la patologia non c'era, e questo è diventato un modello di riferimento molto importante. Ecco perché questi istituti chiaramente si sono interessati al tema. Vorrei tornare su un aspetto insieme a voi che ha sottolineato Marco, e riguarda proprio la percezione dei propri limiti, bisogna sentire il corpo. Queste sono due discipline, immagino che Gianluca, ma anche il dottor Cialoni, perché lui è un apneista, quindi, ma anche Lisetta Landoni, che con lei può dirlo anche lei, dottor Confalonieri, ha fatto qualche attività sportiva in cui ha proprio non ha sentito, l'ho fatta direttamente, però ho seguito tanti atleti alpinisti o apneisti durante la mia vita, e c'è stata una cosa, appunto, come dicevi, detta da Marco, che ritengo di fondamentale importanza per tutti. Cioè, la prima cosa che ha detto è stato: sia nell'apnea sia in montagna dobbiamo essere consapevoli che comandano sempre loro. Ecco, questa percezione credo sia fondamentale, sia il primo insegnamento da dare a chi si avvicina a queste discipline. Uno potrebbe essere portato a pensare che queste persone così grandi nella natura siano quasi onnipotenti o si sentano quasi onnipotenti, invece il loro primo ammonimento è: ricordatevi che comandano sempre loro. Cioè, questo tipo di dimensione ci dà coscienza dei nostri limiti, e partire dai propri limiti è fondamentale per chi comincia. Superare il proprio limite gradualmente, incrementare le proprie possibilità prestative, ma consapevoli che dobbiamo sempre rispettare l'ambiente nel quale abbiamo scelto di vivere queste emozioni. Ci scrive Tiziano: quest'anno vorrei fare il cervino, ma se sentirò di non essere allenato abbastanza rinuncerò, lì non c'è spazio per scherzare. E invece io vorrei respirare, Lisetta. Sì. Ci siamo occupati abbiamo fatto il pranayama dello Sherpa, sì, ma anche per le persone che fanno apnea abbiamo detto che la respirazione è fondamentale, anche uno dei pilastri degli esercizi dell'allenamento a secco. Certo, ecco, io però vorrei anticipare ancora, vorrei dire qualcosa ancora prima di parlare di un esercizio che richiede forse un pochino più tempo. Un atteggiamento che per me è basilare quando uno deve immergersi, in ogni caso per avere la giusta concentrazione prima di qualunque competizione sportiva. Quindi, dove tenere lo sguardo, ad esempio, nel punto tra le sopracciglia, qua. Ecco, proviamo a farlo. Chiudiamo gli occhi, portiamo lo sguardo nel punto tra le sopracciglia e respiriamo tranquillamente attraverso il naso. Tanto inspiro, tanto espiro. Tanto inspiro, tanto espiro. Legando tutto questo, chiaramente, a una cosa che va detta sempre, a priori, qual è il funzionamento del diaframma? Quali sono le funzioni del diaframma? Come si muove? E quindi come noi possiamo utilizzarlo in funzione di quello che vogliamo ottenere? Perché se vogliamo ottenere delle apnee di un certo peso, è chiaro che dobbiamo anche sapere cos'è questo diaframma, come si muove, come si appoggia. Certo. Hai capito? Ecco, a proposito di diaframma, dottor Cialoni, l'iperventilazione, così... Gianluca, sai che dottor Cialoni, Gianluca Giannoni mi guarda per dire no, guarda che ti sei... ho studiato. No, lo so io perché... No. Lui dice no, lasciamola stare l'iperventilazione. No, perché diventa, ecco, è una cosa che torna molto dai nostri messaggi. Vogliamo che con lei e con Gianluca Giannoni capire perché quando uno... non ha detto ai lavori, parla di apnea, sembra che prima di immergersi uno debba fare il pieno d'aria per poi poter restare senza fiato sott'acqua. È giusto fare il pieno d'aria, come hai detto tu, non è giusto fare il pieno d'aria facendo l'iperventilazione. Certo. Quello che ha detto, che ha spiegato adesso Lisetta, è esattamente l'opposto dell'iperventilazione. Uno quando pensa all'iperventilazione deve pensare a atti respiratori corti e molto forzati, quindi un lavoro che toglie tutto quello che è il discorso legato al rilassamento, al benessere psicofisico. Invece la preparazione giusta si fa facendo queste tecniche di ventilazione, facendo respirazione pranayama, utilizzando al meglio il diaframma, e quindi si fa facendo atti respiratori molto lenti e molto profondi. Poi se si vuole andare più sul tecnico, la fase di espirazione dovrebbe essere più lunga fase di ispirazione. Sì, certo. Però il tutto deve essere fatto sempre non con la forza, ma con la rilassatezza, col benessere. Se si parla di apnea come esercizio mentale, come benessere psicofisico, ovviamente non si può legare a un esercizio dove la preparazione è fatta con forza, con atti respiratori forzati, ma solo un esercizio proprio di rilassamento, quindi atti respiratori lenti e profondi. Infatti Gabriele da Padova, scusi dottor Cialoni, noi andiamo a sentire le strade, Carmelo Lauricella è pronto, ma abbiamo anticipato il messaggio di Gabriele da Padova che ci scrive: prima di creare apneisti improvvisati, bastasse una trasmissione, per carità, spiegate cos'è la sincope da bassa profondità. A tra poco, tutti per Gabriele da Padova, 800-24-0024. Essere e benessere. Dottor Cialoni, eccoci a lei. Apneisti improvvisati? No, grazie. Per fortuna fanno i corsi, sempre di più sono più frequentati. È passato il concetto che l'apnea, così come l'alpinismo, ne stiamo parlando oggi, non sono attività che si possono improvvisare, non devono assolutamente essere fatto. E con questa trasmissione vogliamo mettere in guardia, ma soprattutto informare. Dottor Cialoni. Sì, anche perché l'unico modo, diciamo così, per stare in sicurezza non è quello chiaramente di nascondere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, ma quelli di conoscere chiaramente quelli che sono anche i limiti di una disciplina. Lo dicevamo prima, l'apnea, così come probabilmente l'alta montagna, di cui non sono sinceramente un praticante, sono delle discipline che ci devono innanzitutto far capire quali sono i nostri limiti. E questo è il loro grande fascino, anche perché poi questa attenzione te la riporti anche nella vita di tutti i giorni, chiaramente. Avere rispetto rispetto dei propri limiti non è importante soltanto quando si va sott'acqua, ma anche nelle relazioni con gli altri, con la famiglia, e quindi è questa probabilmente la grande forza. Giustamente ci sono dei limiti, Gianluca ci parlava adesso del non fare l'iperventilazione, una cosa correttissima, perché l'iperventilazione determina una diminuzione della quantità di anidride carbonica nel nostro organismo, e la CO2, quindi l'anidride carbonica, è proprio l'elemento che ci fa sentire la voglia di respirare, quindi il suo aumento va rispettato, va sentito e ci deve dare il limite per interrompere. Cioè non dobbiamo pensare che chi pratica apnea pratica una disciplina per superare il limite, assolutamente, ma per conoscerlo e per starne all'interno di questo limite, quindi l'esatto contrario, escluso chiaramente ora il record o la prestazione particolare che può fare il recordman, ma le persone normali che si avvicinano a questa disciplina lo fanno proprio per stare dentro questo limite e godersi però tutto quello che c'è di emozionante in quella parte che sta prima del limite. Un mio grande amico siciliano diceva che si va sott'acqua perché i pensieri galleggiano, per esempio, che è secondo me un buon modo per farci capire. Gianluca, rischi e raccomandazioni. Molti pensano ad esempio che la piscina sia più sicura del mare, perché dice in piscina poi no, faccio presto, vado su. E questo è un altro mito da sfatare. Guarda, io è tanti anni che faccio attività didattica, quindi che faccio corsi, che faccio eventi al mare, eventi in piscina, e per assurdo la maggior parte, fortunatamente pochi, ma gli incidenti che vedo che si verificano ovviamente solo se forzi molto la tua apnea, se arrivi al limite della tua apnea, ma si verificano soprattutto in piscina, perché in piscina inconsciamente nella tua testa uno che si avvicina a questa disciplina pensa: non ce la faccio più, quando non ce la faccio più tanto sono qua in piscina, alzo la testa e respiro. Invece in mare c'è più rispetto, c'è un rispetto molto più grande, perché le prime volte che scendi in profondità nella mente dell'apneista, del nuovo apneista, passa subito l'idea: ma ce la faccio a tornare fino alla superficie? Quindi sei molto più frenato, sei molto più limitato. In piscina invece questo fatto che alzo la testa e respiro, unito all'inesperienza, può far sì che capiti quello che è l'incidente più comune, più diffuso tra quelli che praticano apnea, che è proprio la sincope. Tengo a precisare che non è assolutamente facile avere un incidente di questo tipo. Per avere un incidente di questo tipo bisogna trascurare tutti i segnali che ci dà il nostro corpo, che sono contrazioni al diaframma, che sono queste contrazioni alla gola. Cioè, uno per avere un blackout, per avere una sincope in piscina, deve impegnarsi parecchio, ecco. Lisetta, abbiamo fatto la respirazione e abbiamo imparato a dove tenere lo sguardo. Sì. Qual è una respirazione fondamentale che aiuta quindi chi fa apnea? È una respirazione toracica completa. Dunque noi dobbiamo pensare che dall'ombelico in giù tutta la muscolatura addominale sia contratta, completamente contratta. Sì. E quindi inspirando iniziamo a muovere le coste mobili, le coste fluttuanti, queste verso l'esterno, e cercando possibilmente di pensare al nostro torace che si espande in tutte le direzioni, quindi non solo lateralmente ma anche un po' frontalmente e posteriormente. E l'inspirazione deve essere molto, molto, molto lenta, fino ad arrivare poi alla respirazione alta, chiamata anche subclavicolare o mitrale, quello che è. Insomma, comunque, più ampia e profonda è, meglio è. Poi dopo uno trattiene. Quanto si sente di trattenere, ma senza contare, deve sentire dentro di sé quell'armonia, quel piacere. Per sentire i messaggi del corpo, i segnali esattamente, del corpo, è un modo per conoscersi, ecco, no? Sì. E poi lentissimamente si espira, sentendo che appunto il movimento di espirazione parte dalla chiusura della base della gabbia toracica, quindi le coste fluttuanti che si chiudono e via via, con un movimento fisarmonico. Un fiore che si apre e che si chiude. A fisarmonica. Ognuno può visualizzarlo. Sì. Abbiamo Giovanni che ci chiama dalla provincia di Crema. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Giovanni. Sì, una domanda. Attività subacquea per qualcuno che è sovrappeso. Sì. Ci sono problemi, accorgimenti. Giovanni, di sovrappeso, ma di quanto? Sovrappesino o sovrappesone? Sovrappesone. Sovrappesone, viva! Viva la sincerità. Allora, dottor Cialoni. Sì, Sì, è chiaro che si tratta di attività appunto che ci espongono a delle condizioni non naturali, chiaramente, come in questo caso l'aumento della pressione, ma immagino anche in alta montagna la diminuzione, quindi è ovvio che la condizione fisica comunque gioca un ruolo importante. Non ci sono probabilmente delle controindicazioni assolute, però è chiaro che magari, come si diceva all'inizio, potrebbe essere la scusa magari per una certa attività fisica e quindi magari... Infatti il dottor Confalonieri diceva, parlando di queste due discipline che sono sicuramente molto affascinanti, chi di noi no? non ha sognato di diventare un po' pesce e andare oppure di arrampicarsi, vedi che tu estreme, lo sogniamo comunque. Ancora lo sognate ancora, però il dottor Confalonieri giustamente diceva magari proprio per raggiungere la possibilità, la forma per fisica, la preparazione per, anche senza diventare necessariamente degli apneisti o degli alpinisti come gli amici che sono venuti oggi a trovarci, ma ci si può lavorare, dottor Confalonieri. Certamente sì, anzi è un'ottima scusa per cominciare, soprattutto per chi è in sovrappeso, che magari ha tentato in tanti modi diversi, attraverso diversi approcci, ma sta sempre lì, consapevole che ci sono ovviamente, oltre che delle difficoltà legate alla struttura proprio corporea del soggetto in sovrappeso, dei rischi che aumentano considerevolmente, perché poi il più delle volte il sovrappeso purtroppo si accompagna a una vascolarizzazione inadeguata, a un deficit relativo di irrorazione, quindi di perfusione con l'ossigeno dei diversi organi, dei diversi tessuti, e quindi indubbiamente una situazione che porta a una riduzione della disponibilità di ossigeno può determinare un rischio maggiore. Gianluca, scusami, volevo leggerti un ascoltatore, il messaggio di un ascoltatore, Alessandro, che ci scrive: quando vado in apnea mi sento insicuro e ho ansia. Mi piace l'immersione, ma non riesco a rimanere sotto. Serve esercizio o è una fobia? Serve esercizio per vincere questa fobia che una persona ha. Ad esempio, io mi sono avvicinato all'apnea, dopo tanti anni di nuoto mi veniva molto naturale questo esercizio, questa disciplina. Deve essere un approccio graduale e deve essere non un esercizio fatto di forza per dimostrare qualcosa a se stesso, quanto sono bravo, quanto sto sott'acqua. Se ci si avvicina imparando a respirare, imparando a rilassarsi, e poco alla volta diventa automatico vincere anche queste fobie. È ovvio che ognuno ha delle paure, ognuno ha delle fobie, che è anche quello che permette a chi fa attività come queste di stare in sicurezza. E si vincono poco alla volta, lui avrà dei limiti che poco alla volta supererà, farà poco alla volta meglio e riuscirà a diventare sicuramente un bravo apneista. Abbiamo 30 secondi per salutare il dottor Marco Valerio Vercellini, responsabile per la Polizia Postale delle Comunicazioni e dei progetti di educazione alla legalità e navigazione sicura. Oggi infatti è la prima giornata per la sicurezza sul web. Dottor Cervellini, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi... Noi oggi abbiamo parlato di sicurezza in montagna, di sicurezza sotto il mare, sicurezza anche nel web. Con un messaggio, dottor Cervellini, perché noi siamo in super chiusura. Sì, come ha detto lei, oggi per la prima volta abbiamo istituito la giornata nazionale della sicurezza sul web, quindi siamo passati dalle piazze virtuali alle piazze delle principali città capoluoghi di regione sul territorio nazionale, dove la Polizia di Stato, per volontà del capo della Polizia, il prefetto Antonio Manganelli, è presente con degli info point per tutte quelle che sono le informazioni su come navigare in assoluta sicurezza sulla rete internet. Ce ne dia una al volo anche per noi, per chi non può raggiungere l'info point, cioè... Assolutamente bisogna navigare con consapevolezza, quindi affiancare innanzitutto i propri figli durante l'esplorazione della rete, tenere il computer ben protetto, custodire le informazioni personali e per quanto riguarda i social network inserire quanti meno dati possibili sensibili sulla rete, perché comunque il sistema funziona ugualmente, e soprattutto individuare le persone alle quali si vuole far conoscere il proprio profilo. Grazie dottor Cervellini, buona giornata a lei, buona grazie, giornata anche al dottor Cialoni e ai miei ospiti in studio. Appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo. Radio 24, la passione si sente.